Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto Mondo. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently. Giulia, io ho capito che Trump ha detto abbiamo i migliori medici. Cos'altro? Sì. No, è a questa frase che ha detto in questa brevissima apparizione ieri, appena rientrato alla Casa Bianca, non lasciate che il Covid vi domini, abbiamo le migliori apparecchiature mediche e i migliori farmaci. A queste frasi sicuramente molto sentite da Trump, dette con grande convinzione, ma veramente tutti, compresi alcuni presentatori di Fox News, sì, che usiamo sempre come metro perché sono il network più favorevole a Trump, hanno fatto notare che Donald Trump ha ricevuto, innanzitutto non esiste notizia di un altro paziente affetto da Covid che abbia ricevuto i tre trattamenti contemporaneamente che sta ricevendo lui, cioè gli anticorpi monoclonali, ricordiamo terapia sperimentale, il remdesivir e il cortisone. E poi ricordiamolo, lo avete visto tutti, un team che lo seguiva al Walter Reed di 12 medici, tutti con le loro relative specializzazioni, lo hanno seguito tutti alla Casa Bianca. Alla Casa Bianca è stato replicato, diciamo, tutta la struttura medica sulla quale poteva contare Trump al Walter Reed. Cosa non ancora più importante, è stato ricoverato con sintomi non gravi, cosa che per la maggior parte degli americani e anche in tanti altri paesi non è possibile. Quindi dire agli americani seguite il mio esempio suona veramente stonato, perché certo lui è l'uomo più potente del mondo, riceve cure migliori di così, non è possibile pensarle, ma proprio per questo gli americani non è un esempio da questo esempio, punto di vista, quindi, che è seguibile, certo, questo è vero. Perciò fa molto effetto per esempio il titolo del Wall Street Journal, che come foto ha scelto quella di Trump che si toglie la mascherina, tra l'altro nel modo in cui tutti sconsigliano di fare, cioè toccandola, mentre dovremmo sempre toglierla e metterla usando soltanto gli elastici. Non è una scelta casuale. Comunque il titolo è il presidente torna alla Casa Bianca, e poi c'è questo interessantissimo approfondimento che si intitola Covid Economy Carves, cioè proprio scava un deep divide, una divisione molto profonda tra gli haves e gli have nots, cioè le persone che stanno bene e quelle che non stanno bene, perché l'abbiamo detto tantissime volte, questo vale per gli Stati Uniti più che mai, visto che non hanno un sistema sanitario nazionale come abbiamo noi. Negli Stati Uniti cerchi di andare in ospedale il più tardi possibile, perché qualsiasi cosa ti facciano in un ospedale la dovrai pagare. Non chiami il tuo medico, perché se ti dice di non andare a lavorare in moltissimi casi la malattia non è pagata. Quindi queste cose naturalmente in tempi di pandemia, come dice il Wall Street Journal, non un foglio di estrema sinistra che peraltro negli Stati Uniti non esistono, scava e quindi anche evidenzia questa grande differenza tra chi può contare su una sanità privata o se la può permettere e chi invece non può farlo. C'è anche questo personaggio, l'osteopata più famoso del mondo in questo momento, almeno il più sulla bocca di tutti. Sì, sentiamo le sue parole, perché a me ha fatto veramente effetto come si è giustificato. Ieri era la terza conferenza stampa, ricordiamo che negli Stati Uniti in questo momento sono circa le 8 del mattino, alle 2 saranno le 8 del mattino, quindi avremo sicuramente altre informazioni nel corso della giornata. Al momento disponiamo di questa conferenza stampa di ieri, sentiamo le sue parole. There are HIPAA rules and regulations that restrict me in sharing certain things. Dice, ci sono le HIPAA regulations. HIPAA è acronimo di Health Insurance Portability and Accountability Act, sostanzialmente il regolamento sulla privacy che protegge le informazioni sanitarie delle persone normali. E qui torniamo al fatto che naturalmente il presidente Trump non è una persona normale. Allora tutti i giornali sottolineano, delle due l'una: o bisognava coprire completamente le informazioni sulla salute di Trump, o nel momento in cui avete deciso di darne alcune bisogna essere trasparenti. E questo non è successo di nuovo, perché è incalzato sui risultati dell'attacco per stabilire danni polmonari, sulla febbre, su quanto ossigeno è stato somministrato a Donald Trump. Il medico Sean Conley non ha, appunto, ha fatto appello alla legge sulla privacy. Allora, posta la giusta attenzione sul centro, diciamo, delle notizie internazionali in questi giorni, che è l'America, che altri titoli hai? No, sicuramente, vabbè, negli Stati Uniti c'è anche il tema di New York, dove sono stati messi in lockdown di 9 zone, sostanzialmente zip codes, cioè codici postali, iniziano tutti con 11, quindi non sono di Manhattan, dove iniziano con 10, ma sono di Brooklyn e Queens. E tra l'altro potrebbero arrivarne altri 14, ma per esempio su Financial Times l'altra notizia, sentivo Eleonora Micheli che parlava della dichiarazione della Lagarde, ci sono anche quelle del Fondo Monetario Internazionale che naturalmente lanciano nuovi allarmi, ma la fotonotizia un pochino più leggera, se vogliamo, o che ci mostra come veramente la pandemia abbia coinvolto tutti, è la foto di Daniel Craig, protagonista, si dice per l'ultima volta, di un capitolo di 007. Il film avrebbe dovuto uscire questa primavera, spostato al 12 novembre, e adesso è spostato alla primavera del 2021. E questo per Financial Times non è tanto, naturalmente, il dolore dei fan di James Bond, ma il segno che farlo uscire in questo momento più che dimezzerebbe i possibili incassi, certo. E questo è uno di quei film da cui dipende il destino di una stagione cinematografica, tra l'altro in un momento in cui non soltanto i grandi studi cinematografici, ma tutta la filiera, quindi anche le sale, sono in grandissima difficoltà, perché sono state chiuse, forse lo saranno di nuovo nel Regno Unito. Quindi è un segnale, e la foto è quella di Daniel Craig che imbraccia una di questi di queste armi d'assalto. E... beh, insomma, sì, dai, uno dei film più visti, più noti al mondo, speriamo anche il prossimo lo sia. Ci segnala anche un incredibile annuncio di Boris Johnson, sì. Green, ha molto detto green. Che vuole, sì, ha detto che vuole fare del Regno Unito l'Arabia Saudita dell'eolico, testuale. L'annuncio è stato fatto ieri a questo summit di un'azienda che si chiama Octopus, letteralmente quindi piovra, comunque è un'azienda che ha un logo molto famoso che è una piovra rosa, che il Guardian sceglie di proiettare dietro alla foto di Boris Johnson sulla prima pagina. Ha detto: entro 10 anni tutte le case del Regno Unito saranno alimentate con energia eolica. Sicuramente, il vento non manca, in Inghilterra. Non manca, il vento non manca, l'annuncio sicuramente sarebbe una cosa bellissima, energia pulita, certo lo sappiamo però, e qui abbiamo avuto anche tanti esempi, le pale eoliche non ce ne vogliono veramente tante per garantire l'autosufficienza energetica. Dove esattamente verranno posate, Boris Johnson non l'ha detto. In realtà questo annuncio arriva nel giorno in cui si è saputo, e ha mandato in televisione altri ministri a difendersi, che la app di tracing del Regno Unito non ha funzionato, c'è stato un bug e si sono persi i dati di 50.000 persone che in realtà erano state infettate, si è saputo a posteriori. Moltiplicate queste 50.000 persone con tutti i loro contatti, e insomma potrebbe essere l'ennesimo focolaio fuori controllo. Noi siamo a 7 milioni, mi pare, come download di Mooney, mi pare. Sì, 7 io milioni. L'ho scaricata, ci vogliono due secondi. Sì. Poi intanto si chiude il Bluetooth, bisogna riaprirlo, eccetera. Che altro abbiamo? Abbiamo ancora un minuto e mezzo, quindi sì, possiamo fare una piccola carrellata sempre europea. Mi ha molto colpito su El País, la foto è stata scattata in una sala del Museo del Prado, uno dei più famosi musei spagnoli, che tra l'altro speriamo non debba chiudere in vista della seconda ola. In ogni caso si inaugura questa mostra che si chiama Fragmentos sopra Mujeres, ideologia y artes plásticas en España. Copre tutto il periodo dal 1833 al 1931, e per El País è un modo del Prado di chiedere scusa a tutte le donne per la mancanza di diciamo non tanto di artiste donne, perché ci sono state secondo molti storici dell'arte, ma della mancanza di visibilità che hanno avuto in tutto questo periodo nelle arti figurative. Comunque è sicuramente una mostra interessante al di là di tutto. Poi il grande tema della presenza delle donne nell'arte, se ci sono state e non sono state valorizzate, o se non ci sono proprio state, naturalmente è materia di grande discussione. Abbiamo ancora pochi secondi o sì? O sì. No? L'alternativa li abbiamo o li abbiamo? No, li abbiamo. Ti segnalo solo i giornali francesi che sì, naturalmente su tutte le pagine hanno le foto dei disastri che ci sono stati nel sud della Francia al confine con Ventimiglia. Certo. E poi il tema della ripresa per le imprese. C'è una foto di un caffè di Parigi che da oggi saranno chiusi. L'editoriale sulla prima pagina di Le Figaro si intitola Pilotaggio guida sul ghiaccio, ecco, letteralmente si pattina sul ghiaccio, un po' proprio come se Macron in questo momento pattinasse sul ghiaccio, perché lo sappiamo, i suoi grandissimi programmi di riforme sono di fatto congelati, sono stati congelati dalla pandemia. Adesso l'emergenza è economica e anche loro non riescono ad arginare questa seconda ola. Grazie Giulia, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. È tutto, con Paolo Colleoni in regia, Jacopo De Franchi in redazione, da me Alessio Maurizio l'auguro di una buona giornata, ci risentiamo tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.